chiaramente nel caso del giudice Sossi, con la liberazione di tra l'altro di delinquenti di omicida, insomma, oltre che insomma questa veste di politici, di terroristi, ma avrebbe significato creare un precedente distruttivo per tutta la società sicuramente. Dopo l'agguato restano tre famiglie, quella di Coco e quelle degli uomini della scorta, rintanate nel dolore che in anni bui e distratti viene relegato ad una dimensione privata, mortificato da uno smarrimento collettivo che stordisce le coscienze tra dubbi, imbarazzi e connivenze. Ancora Massimo Coco. Sono stati anni di solitudine, sono stati anni anche di qualche volta di beffe, di sale versato sulle ferite, di qualche umiliazione. Ci è voluto molto tempo e purtroppo anche molto sangue versato perché ci si rendesse conto tutti di che cosa potessero significare il sacrificio di persone. 35 anni dopo, la storia d'Italia è insanguinata e deviata, centinaia di altri morti, migliaia di feriti, il processo di riforma del paese azzoppato e avvilito dal terrore. Oggi cosa resta del sacrificio di un magistrato morto per il coraggio di una scelta? Questi sacrifici hanno un senso nel momento in cui sono condivisi, questo è il senso della cosa, nel momento in cui la società si rende conto che si è pronti a morire per difendere la legge, per difendere dei valori, per difendere dei principi. Non hanno senso quando si vede che la vittima è confusa con il carnefice, un buon ultimo il caso dei recenti attacchi alla magistratura con identificazione addirittura delle Brigate Rosse all'interno delle procure, o quando gli interpreti in negativo di questa storia di sangue siano chiamati addirittura in cattedra a far loro lezione. Ecco, in questi casi quel sacrificio appare inutile, anzi viene quasi calpestato, deriso, ecco. Italia in controluce, torniamo oggi 13:30 su Radio 24.